E allora 11:25 di nuovo in diretta in questa mattinata di sabato 19 di maggio. Come avevamo annunciato, questo redazionale di questa mattinata affronteremo uno dei tanti temi che ci porterà da adesso fino al giorno in cui la Cassazione vorrà mettere, intorno al 13 di luglio, la parola conclusiva, perlomeno dal punto di vista giudiziario, alle condanne di 10 attivisti manifestanti di quel luglio del 2001. Ovviamente l'obiettivo è in primis di cercare di dar sostegno a questi 10 manifestanti che rischiano di pagare per tutto quella macellateria messicana di cui si è piuttosto detto a Genova, quindi stare vicino a loro, aiutarli loro, ma anche per dire il nostro punto di vista, la nostra verità su Genova 2001. Quindi affronteremo da vari punti di vista una riflessione di che cosa è successo in quelle giornate a Genova. Quest'oggi prenderemo una parte molto interessante dell'aspetto, perché sono i sanitari, medici e paramedici che facevano parte del gruppo sanitario del Genova Social Forum, quindi che hanno curato le ferite prodotte dalle forze del cosiddetto ordine in piazza e anche delle successive, appunto, devastazioni alle persone fatte ai manifestanti sempre da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Bene, questo è quindi la premessa. Adesso abbiamo qui tre compagni che hanno partecipato a quelle giornate nel loro ruolo, appunto, di sanare le ferite che venivano portate ai manifestanti. Sentiamo la loro valutazione. Quando magari i compagni della radio ci hanno chiamato per dire volevamo fare una cosa su questo particolare aspetto di Genova, insomma, ci siamo sentiti un po' qualcuno, perché ovviamente noi siamo tre, ma insomma, per esempio da Roma sono partiti moltissime persone. E abbiamo detto: ma da dove cominciamo? Ma che come possiamo, diciamo, rifare? Fra l'altro è una cosa che è successa ormai 12 anni fa, l'età avanza, ma al di là della questione dei ricordi, io penso che al di là della questione generale, insomma, del G8 di Genova, eccetera, questo sorta di, diciamo, organizzazione sanitaria che si è creata, no? Che si è formata al pari di altre filoni, diciamo, sui quali si è costituita anche lì un'organizzazione, penso, che ne so, alla questione dell'informazione, no? Quindi a Genova funzionava questa radio, praticamente una radio che aveva visto anche lì un convergere di tanti compagni, tante esperienze, tante radio e anche non radio, ma che hanno messo su in poco tempo, diciamo, una radio che poi ha costituito un canale importantissimo, diciamo, durante queste... Era Radio Gap, no? Radio Gap, che dava... sì. E dopo quello, ma anche per esempio per quanto riguarda il servizio legale, no? C'era un team di avvocati che avevano previsto, insomma, si erano comunque preparati, avevano cercato di organizzare una struttura che in qualche modo potesse far fronte a questo evento che ci sarebbe stato. E non per ultimo, appunto, anche noi. Perché? Perché c'era la sensazione chiara che a Genova poteva succedere, c'era un clima secondo il quale non sarebbe stata praticamente una iniziativa, una manifestazione normale, ma si vedeva che praticamente era molto probabile, ma questo non tanto per, diciamo, le affermazioni che facevano i manifestanti, ma quanto per le prese di posizioni e le iniziative, diciamo, propagandistiche, di stampa, eccetera, in cui si stava montando praticamente un clima secondo il quale, insomma, si stava creando il substrato per cui poi tutto quello che sarebbe avvenuto avrebbe trovato una giustificazione, diciamo, e quindi questi già in testa ci avevano che la storia non sarebbe finita così normalmente. E questo, diciamo, è già un aspetto che secondo me è abbastanza importante, perché un altro elemento che volevo dire è uno dei dati che faceva capire questa storia, perché c'era stato un precedente qualche mese prima a Napoli, dove in versione diciamo più ridotta come quantità di persone, però insomma i temi erano esattamente gli stessi, ma con una cosa che cambiava sostanzialmente, che era il governo, che era diverso, perché era un governo di centrosinistra. E in occasione di un non mi ricordo se era il Fondo Monetario, che era una riunione, mi sembra, del Fondo Monetario a Napoli, sì. E lì ci fu praticamente una prova generale in cui si era capito benissimo che l'obiettivo in questa manifestazione a Napoli, cioè la reazione della polizia, non era la classica reazione che serve per disperdere, per far finire i casini, per allontanare, per non far minacciare questa iniziativa, eccetera, ma c'era sicuramente qualcosa di più. Infatti a Napoli li chiusero dentro la piazza e per un pelo sfuggì una mattanza, perché infatti li chiusero proprio, chiusero il corteo dentro una piazza. Era questa la dinamica, insomma, perché adesso pure dal punto di vista, voglio dire, cinico della polizia, nessuno ti fa una carica e non ti lascia una via d'uscita, perché non ha senso, perché tu stai lì proprio per disperdere e non ho per concentrare e questo evita così. E quindi, insomma, queste cose ci avevano... Fra l'altro voglio fare un piccolo inciso così. Non so chi di voi ha letto un libro di Camilleri, che è uno dei vari Montalbano, e inizia questo libro cominciando che Montalbano si vuole dimettere perché, dice, siamo dentro una polizia che addirittura fabbrica le prove, mette le bottiglie Molotov, così... E quando il suo Mimì, che è il suo sottoposto, gli dice: e vabbè, ma questi sono da destra, questi sono così, ma che ti aspetti? Comunque noi siamo un'istituzione sana, eccetera. E Montalbano gli risponde: e no, dice, perché guarda che a Napoli c'erano quell'altri. e praticamente la storia era, diciamo, la prova generale l'hanno fatta là. Alla fine Montalbano non si dimette, ma questo per dire che, insomma, sta cosa è stata colta da anche, diciamo, a livello letterario, insomma, è solamente questo appunto. Quindi c'era questa aspettativa, questa storia, e forse questa diciamo sensazione che si stava andando verso una situazione in cui la logica non esisteva più, almeno una logica che uno si sarebbe aspettato, ma esisteva un'altra logica, cioè il sonno dà ragione, il fatto che le dinamiche erano completamente indipendenti anche dagli stessi partecipanti, perché lì c'era una decisione, diciamo, a monte. E secondo me qui entra il secondo aspetto, che secondo me è stata una grossa esperienza, perché il fatto che si tentasse dal basso di costruire comunque una storia di strutture che andasse al di là delle divisioni, perché non è che si può dire che a Genova ci siamo andati tutti quanti con le stesse posizioni, anzi, un gran casino, però su questi servizi si sono create delle strutture, delle organizzazioni dal basso, con lo spirito di quelli che stavano comunque da una sola parte, e su una parte sostanzialmente dei diritti inalienabili, cioè la salute, la legalità, l'informazione. E questo secondo me è stato un esperimento che forse non ha raccolto poi alla fine quello che doveva raccogliere nel dopo Genova, perché questo spirito probabilmente sia abbastanza disperso, insomma, no? E invece magari quello poteva insegnare che qualcosa di buono, anche se la sproporzione era enorme su quello che si poteva fare, diciamo, organizzativamente per rispondere a praticamente un esercito che ti attaccava, però sostanzialmente, insomma, questa era proprio, diciamo, l'immagine, insomma, di come si potrebbero fare le cose, di come se c'è uno spirito giusto, di come quando uno è convinto di alcune cose, poi al di là delle divisioni, eccetera, si trova comunque la forma anche di dare delle risposte concrete, diciamo, a dei problemi che magari non... ovviamente non possono risolvere il problema, ma insomma possono costituire. Sì, io direi che magari possiamo dar poco qualche dato. Qualche dato, sì. Buongiorno a tutti i compagni in ascolto. Dunque, I dati sono questi, Pepe ha ragione, sono passati più di 11 anni circa, e la memoria l'abbiamo ripescata da degli scritti appunto dell'epoca, possiamo dire, e sono questi. In totale c'erano circa 150 tra medici, infermieri e comunque volontari di area sanitaria, venivano da tutta Italia e anche da tutta Europa, direi addirittura, da tutta Europa. Abbiamo lavorato anche senza capirci con la lingua, con compagni veramente di tutta Europa. E ci siamo intesi subito sul momento, ovviamente. E, l'organizzazione, il centro dell'organizzazione stava alla scuola Diaz. Lì ovviamente i compagni di Genova facevano la radio. Dove c'era la radio, dove c'era il servizio legale, dove appunto direi i tre cardini di questa auto-organizzazione erano proprio questi: il servizio legale, il sistema di informazione di autoprodotta, che poi è stata fondamentale, ahimè, forse con scarsi risultati poi in termini legali, e poi appunto il sistema sanitario, tutto autogestito. E il materiali venivano da donazioni, ovviamente, da donazioni e quindi collette e quant'altro. Quindi. E l'organizzazione è stata così, quindi disponevamo di un'ambulanza vera e propria, che era della Lila, credo, quindi questo per dire appunto quanti organismi partecipavano al tutto, e poi due furgoni dati da privati che erano stati attrezzati ad ambulanza. Gli obiettivi erano diversi, ovviamente, come diceva Peppe, forse ecco, solo i più sprovveduti pensavano che avremmo dovuto curare malori da caldo. Però ecco, l'obiettivo era quello di fare soprattutto da filtro sul territorio, quindi organizzando queste ambulanze con sempre un sanitario, possibilmente un medico e un compagno genovese che conoscesse ovviamente la logistica del posto, perché sennò poi ci perdiamo per la città, molti di noi non c'erano mai stati. E poi questo funzionava da centro, i diversi furgoni e ambulanze, e poi sparsi con delle zainette attrezzati, compagni a coppia, sempre con un genovese nella coppia, che girava in un'area limitata nell'ambulanza per poi fare riferimento al furgone come primo filtro, quindi come secondo filtro, quindi il filtro in periferia, poi il furgone, e da qui la valutazione. Peppe ci può spiegare il triage come veniva fatto, è un maestro di questo, e quindi la valutazione sull'emergenza in corso è evitare possibilmente di fare riferimento alla sanità ufficiale, per quanto poi c'erano stati già scambi organizzativi tra parte del sanitario del Social Forum e il sistema sanitario Ligure, che aveva garantito che sarebbe stato ovviamente garantito l'assistenza in termini anche di riservatezza eccetera, cosa che invece non sempre è successa dopo, anche se ne discutevamo prima. Al contrario, ci sono stati molti dei lavoratori poi invece delle ASL, degli ospedali di riferimento, che hanno invece garantito, anzi fatto in modo che i compagni non avessero problemi giudiziari, quindi questo è successo. E abbiamo cominciato, i numeri dell'assistenza fatta sono stati poi raccolti dai compagni, e diciamo ufficialmente si stima in difetto, perché molti non hanno neanche avuto occasione di farsi medicare, che ci sono stati 1200 feriti, in difetto questo. Le chiamate al 118 sono state 1500, di cui 7 codici rossi, quindi il massimo della gravità possibile, e dei 450, poi che purtroppo sono dovuti andare al pronto soccorso per lesioni maggiori, il 20% sono stati ricoverati e parte di questi operati d'urgenza per lesioni traumatiche. Che è una percentuale comunque molto alta, sì. Per una chirurgia diciamo traumatica, il 20% di ricoveri che seguono un accesso è molto alta. Cioè nessuno ricopre al 20% delle persone che arrivano al pronto soccorso. Certo. Questo fa capire, diciamo, la pesantezza, ma che tutti quelli che hanno avuto traumi minori non sono andati. Quindi sono andati solamente quelli. Quindi il numero è molto più alto probabilmente. Anche chi si è riportato anche fratture, ovviamente non gravissime, a casa. E poi se le è fatte curare a casa. Quindi questa cifra che dai, hai detto per difetto, possiamo dire molto per difetto. Molto per difetto, sì, questo è indubbio. Poi nella scuola Diaz, appunto, era stata approntata una sorta di ospedale da campo, ovviamente. E lì sostavano appunto degenti, tra virgolette, che non potevano camminare, eccetera, e quindi per un po' hanno sostato lì, ahimè, e questo poi è stato anche un dramma, come ben sappiamo. Il tipo di traumi, ovviamente, qui non scendiamo troppo nel tecnico, ma hanno dimostrato un accanimento barbaro, insomma, tutti quanti abbiamo scoperto all'epoca, a parte chi faceva arti marziali, non certo il sottoscritto, abbiamo scoperto cos'erano i tonf, abbiamo scoperto quindi le lesioni, le ecchimosi a stampo, no? Che quindi vuol dire che i manifestanti sono stati colpiti non con la punta, ma con l'impugnatura del manganello per fare più male, e soprattutto un sacco, ma tantissime lesioni da difesa, cioè persone quindi picchiate sulla l'avambraccio, cose che sono proprio tipiche di chi inerme sta a terra e viene massacrato così. Abbiamo assistito ovviamente direttamente a questo. Io direi ultima cosa come testimonianza, perché si dice sempre, ecco, ormai si parla sempre di Genova come, questa Amnesty International l'ha detto, come la sospensione della legalità costituzionale, no? Dal nostro punto di vista, e possiamo considerare una guerra a senso unico ovviamente, in cui c'è chi attacca e chi viene attaccato, possiamo dire che è stata sospesa anche la Convenzione di Ginevra, se per questo, oltre la Carta Costituzionale, perché sinceramente non c'è stato garantito la possibilità poi di assistere quanti stavano male, ovviamente, anzi molti di noi sono stati oggetto di violenza, e al sottoscritto è stata, ci qualificavamo, tutti eravamo molto riconoscibili, ovviamente con una croce rossa sulla maglietta, ma io a un certo punto ho dovuto tirare fuori il tesserino dell'Ordine dei Medici e un, come direbbe Totò, un uomo in borghese col cappello in divisa, quindi col casco, mi ha sequestrato il tesserino da medico, cosa del tutto illegale ovviamente, no? Senza verbale e niente. Beh, voi non ci crederete che qualche mese dopo mi ha chiamato l'ufficio oggetti smarriti dell'ATAC, io ero stato il mio commissariato di zona poi a denunciare la cosa, ovviamente ero un po' imbarazzato, ho detto che faccio, non posso denunciare un sequestro, non c'ho un verbale, e quello mi ha detto guardi non possiamo fare altro che denunciare lo smarrimento, perché legalmente questa cosa non può esistere. Dopo qualche mese l'ufficio oggetti smarriti dell'ATAC mi ha chiamato che il mio tesserino l'avevo trovato in un cassonetto qui a Roma, quindi pensate che giri che avrà fatto sto tesserino per le Digos di tutta Italia per arrivare poi qua a Roma. E questo per dire, è un esempio per dire appunto il clima qual era lì a Genova. Ma poi solo a scopo intimidatorio, come si può dire, non sì, vedo proprio che cavolo di altro motivo ci poteva essere. No. Vabbè, insomma, io al di là dei singoli episodi, insomma, no? Delle cose che hai visto, insomma, che si vedono, le cure, eccetera. C'è questo libretto che insomma è uscito fuori, che si chiama Obbligo di Referto, e si chiama Obbligo di Referto proprio per stabilire questo discorso in cui praticamente ogni medico è obbligato, quando è in presenza di un ferito, a fare comunque un referto. Ora questa storia qua, un referto in cui si dice praticamente quello che è successo, quanta prognosi c'ha e se ci sono responsabilità di terzi, evidentemente anche inviarlo all'autorità giudiziaria perché procedesse. Ora tutto questo chiaramente lì non è assolutamente avvenuto, però dicevo, no, questo libro che sono praticamente una raccolta di scritti di parte di chi era lì a fare questo gruppo sanitario, e una delle frasi che ricorreva era questo, era in queste cose, e questo dice: non sparare sulla Croce Rossa oggi non vale. E infatti questo proprio è vero, perché diciamo ci sono stati veramente alcuni episodi incredibili, di cui uno c'è stato proprio questo, diciamo, dentro questa ambulanza, diciamo, dentro questa ambulanza attrezzata con questa cosa, con dentro, mentre stavamo diciamo in questo corteo, chiaramente sono arrivati praticamente i candelotti dentro addirittura questa cosa qui, e soprattutto si è scatenato, cioè dopo un certo livello si scatenano delle dinamiche che non so, secondo me, né politiche né sociali, né, cioè, perché quando gira, diciamo, il terrore animali, sì, dentro una massa di centinaia di migliaia di persone, secondo me sì, escono fuori praticamente veramente i comportamenti più istintuali, più animali, cioè quelli che praticamente ti spingono alla sopravvivenza, probabilmente anche facendo cose molto irrazionali. Buttarsi dentro questo in 10.000 perché c'aveva una Croce Rossa attaccata, di tutte quante le persone, quando sono scoppiati i lacrimogeni, sono state le cariche eccetera, cercare di entrare dentro perché là si sperava che c'era quando già era strapieno, calpestando quegli altri che stavano là dentro eccetera, cioè non ha niente di razionale. Eppure, diciamo, si era creato un clima nel quale, diciamo, il pericolo maggiore, oltre a quello delle cariche della polizia, era proprio quello che succede, che non so, dentro uno stadio o dentro non so, una moschea, quando succede qualche cosa per cui c'è una fuga generalizzata. Io me lo ricordo il furgone che ci siamo incrociati, scusa un attimo, proprio la mattina di sabato, no? Quando c'è stata la carica, le cariche contro i 300.000, io mi ricordo il furgone, mi ricordo insomma che già non ho assistito a queste scene che descrivevi, però mi ricordo la faccia tua in particolare e sto furgone, quindi oltre a, insomma, la, posso dire gioia e piacere in quella circostanza, ma di riconoscere te, ma anche la sensazione appunto che c'era qualche cosa che non andava, che stava, no, cioè mi ricordo qualcuno che si sta ancora, forse non era avvenuto questo assalto irrazionale, qualcuno che si faceva curare, qualcuno che stava male, questo clima terribile, questo tentativo di fuggire veramente anche buttandosi a mare quasi, e quindi mi rendo conto anche la difficoltà, per rimanere su questo argomento, di voi che stavate in queste condizioni. Però poi magari dopo che è venuto il compagno parliamo anche di quello che poi siete riusciti a fare, anche al di là, diciamo, dello stretto intervento medico, no? Rispetto anche a questo tipo di comportamenti. Io mi ricordo che stavo nel furgone, appunto, ci facevo parte dell'organizzazione sanitaria, c'è lì all'interno del furgone, e all'altezza del lungomare, cioè, che eravamo fermi, cioè, perché appunto il corteo non riusciva più a camminare, cioè, andare oltre, che ci venne incontro un plotone dei finanzieri, cioè, chiedendoci di poter vedere che cosa c'era dentro e l'ambulanza. Loro, cioè, pensavano che c'erano delle armi, sì, cioè, loro, e loro pensavano che c'erano delle armi, che c'erano delle mazze, insomma, c'è, cioè, tutte queste cose così. Noi tranquillamente apriamo il furgone, facciamo vedere dentro, no, c'è, cioè, chi c'era, e sì, è vero, c'è, cioè, cioè, ma immaginate che sto furgone praticamente in mezzo a questo corteo deve tornare, certo, indietro, deve fare in retromarcia, non proprio si capisce perché si ferma. Dopo un po' riusciamo a capire sì, elicottero sopra è una cosa, no, dillo allora, fate, sì, insomma, riassumendo molto un episodio, insomma, a ricordarlo è che ancora uno ci si emoziona, perché veramente è concitato il racconto, sì, il racconto ovviamente, chiaro, parte. L'elicottero ci volteggiava sopra, aveva individuato questo furgone in mezzo al corteo, quindi sospettavano che dentro ci fossero armi o quant'altro, quindi non riuscivano ad arrivare al furgone perché c'erano 300.000 persone intorno, quindi ci hanno costretto a fare retromarcia con il corteo invece che tentava di avanzare, fino ad arrivare a un bivio dove poi appunto i finanzieri hanno visto che dentro ci stava, ancora mi ricordo, una povera signora francese di mezza età, pure obesa, diciamo, che stava con un colpo di calore, insomma non era svenuta dentro. E altri compagni dentro, insomma, mezzi acciaccati, anzi è rimasto, quasi avesse scoperto veramente un lazzaretto, si è inorridito, ha messo due mani alla cieca dentro delle borse che ovviamente contenevano cerotto e quant'altro, e quindi poi se n'è andato. Avranno dato l'ordine su all'elicottero che era tutto a posto e quindi per il momento si è tranquillizzato. Dopo un po', pochi minuti invece, è successo il delirio, perché l'elicottero ha cominciato dall'alto a sparare lacrimogeni, poi l'elicottero a una trentina di metri di quota ha cominciato a sparare verso il basso. Un lacrimogeno è entrato nell'ambulanza con tutti i feriti, e mentre tutti tentavano dall'esterno di entrare nell'ambulanza, quindi scavalcando i corpi uno sull'altro. Io sinceramente, quello, pensandoci adesso, poi mi vergogno, ma non ho potuto fare altro che carponi sui corpi delle persone, uscire fuori, sono cascato sul retro dell'ambulanza, cascando sulla gente che stava già per terra, perché ovviamente poi, per chi c'era, se vi ricordate, la prima volta che usavano quel tipo di lacrimogeni, sì, tra l'altro, sì, quelli non solo erano, sì, paralizzanti, e non solo, ed erano terribilmente urticanti pure sulla pelle, anche per i compagni che avevano maschere antigas, era pazzesco, sulla bisognava stare completamente coperti con quel caldo che faceva. Sono riuscito a scivolare fuori, c'ha ragione Peppe, quelli sono comportamenti istintuali, neanche uno riesce a dire come, perché, e alla fine mi sono ritrovato con la carica che veniva da dietro, invece tagliato dal furgone di cui mi sentivo responsabile, il medico responsabile del furgone, avevo lasciato i feriti, insomma mi sembrava una cosa altamente vile, ma non c'era alternativa, cioè, sinceramente non c'era alternativa. Ho fatto poi una cosa che non so neanche come possibile, con altri altri compagni, ho alzato le mani tentando, come si può dire in termini militari, di passare le linee. Ho detto: guardate, io sono responsabile del furgone, devo tornare indietro. E devo dire che poi alla fine quella volta ci hanno fatto passare e siamo riusciti a riprendere il furgone. E quello un pochettino dopo poi è successo, che poi abbiamo cominciato, cioè veramente adesso la memoria è pure confusa, ma insomma, ecco, poi alla fine abbiamo fatto altro che razzolare per il lungomare cercando di raccogliere il più possibile ferite e portarli il più lontano possibile, insomma. Infatti poi i compagni mm-hmm. e da quella piazza sì. si sono allontanati scappando, ovvio, c'è chi a destra, c'è chi a sinistra, e alcuni c'è compagni, incluso il sottoscritto, mm-hmm. e scappammo verso il mare, cioè andando verso, cioè sulla spiaggia, sperando che lì ci fossimo lasciati liberi di correre. No, cioè ci troviamo circondati dai gommoni, da motoscafi, dei carabinieri, della guardia di finanza, che ti facevano avanti e indietro, cioè come adesso sbarchiamo. E quindi c'era il panico, cioè, più totale, dei compagni che cercavano di difendersi, cioè tirando della ghiaia che c'erano lì, e questi che ti minacciavano cioè continuamente. Cioè è vero, c'è il discorso che tu dici, ma che cosa è successo, che sta succedendo qui, che cosa abbiamo fatto? Benissimo, è morto Carlo, l'avete ammazzato, ma state a cercare un altro morto? Cioè, e dovreste voi avvergognarvi, voi a scappare, non noi che difendiamo la democrazia, c'è in Italia i diritti, c'è di libertà, il diritto di manifestare. Ci siamo trovati così circondati, e compagni che cadevano, perché poi ci calpestavamo l'uno sull'altro, e venivano lasciati lì, e poi arrivavano, cioè per fortuna sti compagni del Social Forum e Sanità, incluso io, cioè i compagni c'è qui presenti, che li prendevamo di nascosto, perché c'era paura che ti massacravano, li nascondevamo sotto delle barche c'è capovolte, aspettando che arrivasse l'ambulanza della Lillade per portare via questi compagni. Quindi noi ci siamo trovati anche verso la notte, l'una di notte, le 10, le 23, cioè, che devo dire, con la paura circolavamo nelle strade di Genova con questa ambulanza, con la paura, il terrore, cioè che c'erano i nazisti che ti aspettavano, porco di se quel termine esatto, che ti sdrumavano se ti vedevano, c'era un coprifuoco. Sì, io volevo capire anche, se ne è parlato, ma insomma giustamente questo è il tema di oggi, qual era poi il rapporto con gli ospedali. E per esempio noi abbiamo visto anche, cioè, quelle sere si vedevano anche nei telegiornali, e ci hanno raccontato, perché noi li stavamo vedendo, che c'era, la polizia entrava dentro il pronto soccorso per fare una specie di rastrellamento, no? Quindi vorrei un po' che ci raccontasse anche questo aspetto. Sì, dunque, io devo dire, c'è stato un lavoro di preparativo su questo da parte appunto dei compagni di Genova, del Genova Social Forum, e devo dire che come tutto poi nella media delle cose ci sono stati esempi in positivo e esempi in negativo. Mediamente devo dire che poi il personale sanitario, appunto i dipendenti dei centri di riferimento, devo dire, hanno fatto di tutto per fare il loro dovere, per assistere feriti, insomma, anche in termini istituzionali proprio, insomma, no? Tutto è il loro compito, è il nostro compito quando lavoriamo da dipendenti nelle strutture pubbliche. E però ci sono stati esempi anche di franca delazione, sicuramente, e poi quindi perlomeno di come dire, chiudere gli occhi e di permettere alla polizia di rastrellare all'interno dei pronto soccorso. Però direi che mediamente si è notata solidarietà, mediamente, questo perché appunto c'era stato un lavoro preparatorio da parte il Genova Social Forum. No, quello che poi invece è assolutamente, ovviamente, inaccettabile, ma anche dal nostro punto di vista deontologico morale, poi quello che è successo a Bolzaneto da parte dei sanitari, là quello assolutamente, diciamo, liberamente, ecco, si sente, a parte la carenza morale, ma insomma la carenza anche legislativa, perché in Italia non esiste il reato di tortura, insomma, ma liberamente. E questo, ecco, anche un grido mio di personale di dolore come medico, cioè che io sappia l'Ordine dei Medici ovviamente non ha fatto nessun tipo di iniziativa rispetto a iscritti, insomma, che hanno violato i principi fondamentali della professione, insomma morali, direi, ecco. Quindi dove c'è tortura c'è un medico, Così. Diciamo dove in senso generale, sì, in senso generale, dove c'è tortura c'è qualcuno che sa come è fatto il corpo umano e come funziona, questo è vero. Sì, ma non si comunque può fare. Anche diciamo la questione dei pronto soccorso, anche su questo diciamo si è fatto poco, perché quello che è successo nei pronto soccorso sono veri e propri abusi, diciamo, che ci sono stati. È vero che è una situazione particolare, una situazione eccezionale, il personale ovviamente era anche diciamo oberato, diciamo, da una massa maggiore di persone di quelle che si ha del solito, però chiaramente questi sono quegli elementi che dovrebbero far partire proprio nella forma dell'organizzazione, delle regole che devono valere dentro un pronto soccorso, quale sia il rapporto tra la sanità e comunque le persone sottoposte, diciamo, a una qualche forma di cautela o sospettate di qualcosa, che è un tema attuale, è un tema perenne e c'è sempre. C'è da dire, diciamo, una cosa: nei pronto soccorsi è vero che esiste, al di là degli altri reparti, un rapporto con la polizia che è quasi obbligato, perché ovviamente ci sono 2000 questioni, dal rintraccio dei parenti, dalle questioni che... Quindi tu comunque con la polizia c'hai a che fare. Ci stanno i posti di polizia là, e è ovvio che nasce anche un rapporto, per forza istituzionale. Bisognerebbe che questo rapporto istituzionale però avvenga su dei paletti abbastanza precisi. E questo non avviene sempre, bisogna riconoscerlo. Certo. Non avviene sempre. Nel senso che si concedono delle libertà dentro queste strutture, in nome chissà di che, dal fatto che non si debba assolutamente consegnare una cartella clinica al poliziotto che ti accompagna, perché quella è una cosa, casomai la sequestra al magistrato, ma tu quello non glielo devi dare. Allora, ci sono delle regole che non sempre vengono rispettate. Ora potete immaginare dentro una situazione di quel tipo là che cosa può essere successo, anche se, come diceva Augusto, mediamente non hanno risposto male, perché sono molti di più i casi in cui c'è stato anche uno scontro dentro i pronto soccorsi rispetto alla, per esempio, una cosa che hanno fatto loro: hanno diviso i manifestanti feriti dai poliziotti feriti, che erano molto di meno e molto più lievi, comunque questi l'hanno divisi, e quando praticamente ci sono state forme comunque di rappresaglia o tentativi di rappresaglia che ci sono state, immediatamente, diciamo, si è risposto in un certo modo. Sono a conoscenza anche delle persone che sono state curate, medicate e mandate via senza fare feriti, senza fare niente, proprio per salvaguardarli, diciamo, da un'eventuale conseguenza. Sì. E poi un'altra cosa volevo dire, no? Questa, diciamo, c'entra forse poco, però su quello che diceva Augusto, no? Sul fatto che quando ti trovi in queste situazioni in cui praticamente, intanto c'è da dire una cosa, cioè l'uccisione di Carlo Giuliani, cioè un morto in quella situazione, è stato quasi un miracolo che ce n'era uno solo, insomma, perché in quella situazione là erano classiche situazioni dove è fuori controllo tutto, e quindi praticamente questo poteva innescare senz'altro altre questioni che sono state in bilancio grave, ma insomma rispetto alla situazione che c'era io mi aspettavo molto, molto di più, insomma, di quello che è successo, non perché sia poco. E forse la sensazione maggiore che uno si ricorda rispetto a questo, al di là delle questioni forse politiche, sociali, è proprio questo tuo rapporto che hai dentro queste situazioni, cioè come ti senti alla fine abbastanza piccolo, come ti senti abbastanza da una parte impotente, e da una parte impotente ma da una parte pure diciamo poco rispetto alla situazione, a come te vorresti, a non sai che cosa scegliere di fare, non sai che cosa fare. Questa è una sensazione che secondo me è rimasta dentro parecchi di noi, cioè trovarsi dentro una situazione, perché io posso capire, dentro una situazione, sai, dice, ci vuole coraggio o non coraggio a fare una cosa, uno fa un'analisi su di sé e lo fa, ma se ti trovi in una situazione e vedi che non sai veramente che fa, e ti trovi inadeguato rispetto a questa, cioè sai che non sempre, cioè che ti puoi trovare di fronte a situazioni, in questioni dove praticamente non fai quello che vorresti fare, ecco. Però che te voglio dire, credo che sia anche questo uno degli obiettivi del potere, no? In questo senso lo chiamo potere non per retorica, ma perché Genova non è la polizia, non è stato solo la polizia, è stato Fini nella sala di comando della questura, è stato il governo che, come ricordavi, poi era, diciamo, ripetuto su scala maggiore quello che era successo a Napoli, quindi è stato il potere della, è stato Berlusconi che appare in televisione la sera della morte di Carlo Giuliani con Ciampi, è stato il potere che ha voluto proprio dire a tutta quella grande manifestazione: guarda che tu non conti niente, sei piccolo e se alzi la testa io te la spacco. Terrorismo di Stato, ecco, esatto, terrorismo oggi, possiamo dire, in questo decennio si applica esattamente al comportamento delle forze dello Stato in quella vicenda e non solo. Cioè il terrore è il terrore, questo voglio dire, cioè una volta che uno entra dentro il terrore è proprio questo, è l'annullamento praticamente, cioè metterti in una condizione irrazionale in cui tu trovi delle soluzioni individuali che non sono mai quelle giuste, fra l'altro. No, no, però perfettamente d'accordo. Io direi, però, facendo il sunto della nostra esperienza, a questo punto noi siamo andati a fare, noi siamo andati, abbiamo avuto il nostro piccolo ruolo perché dai, la lotta era impari, però ecco, se non altro l'esperienza io la confermo come positiva a distanza di anni come auto-organizzazione. Questo riguarda sia i sanitari, ovviamente i legali e anche chi faceva informazione, perché quella è stata contro informazione, è stato fondamentale questo. E direi, noi siamo tutti persone abituate alle emergenze, il nostro lavoro è questo, no? E questa è una super emergenza e come tutti gli esseri umani in questi casi diamo o il meglio o il peggio di noi, questa è la cosa, no? Io direi che, rivedendo col senno di poi, devo dire le esperienze, molti di noi hanno dato il meglio di loro, non so, in questa situazione quello che hanno potuto fare l'hanno fatto, ovviamente con risultati purtroppo minimi, ma l'abbiamo fatto. A questo proposito io volevo leggere solo un pezzettino brevissimo di questa testimonianza, ve la leggo. Noi non li dimenticheremo questi giovani di Genova, li racconteremo a chi non c'era, a chi non immagina, a chi pensa che un altro mondo è possibile, a chi non può aspettare 100 anni. Forse anche qui abbiamo bastante che praticano ogni giorno nel sud del mondo. Queste parole sono del compagno Paolo Di Rienzo. Lui purtroppo 100 anni non ce l'ha avuti, ne ha avuti molto di meno perché è morto 1 anno e mezzo fa. E qui volevamo approfittare per ricordarlo. Era un medico, un compagno, che io ho conosciuto là in quei giorni, non l'avevo mai visto, come molti altri di noi, e abbiamo collaborato a stretto contatto per quei giorni e ha dato un contributo fondamentale. Ha continuato a farlo poi negli anni successivi, fino a che non è morto 1 anno e mezzo fa, qui a Roma, lavorando nel campo degli immigrati e dei diseredati. E questo poi mi fa pensare, questo fatto, ecco, appunto lui si era avvicinato al social forum in quell'occasione, che Peppe l'aveva accennato all'inizio. Beh, non è così vero che si è fermata qui questa esperienza, No. Perché se vi ricordate poi è nata quella che possiamo chiamare l'epopea, in termini un pochettino di retorico, dei social forum anche per noi della sanità, perché poi c'è stato Firenze l'anno dopo e Londra, Parigi, Atene, quello del Mediterraneo a Barcellona e così via. E effettivamente abbiamo creato, partendo da Genova, una rete europea sanitaria. Perché? Perché poi non è che cominciava, comunque veniva sistematizzato l'attacco ai sistemi sanitari nazionali in Europa, no? Diciamo, questo. E devo dire che, come tutte le cose, poi sapete, siamo stati anche tacciati a volte di turismo politico, perché sono girate le capitali d'Europa, così. Però per carità, abbiamo tessuto questa rete, perché i problemi erano tutti, chi stava un po' avanti, un po' più indietro di stati nazionali europei, ma la tendenza era quella, no? Costi troppo alti della sanità, quindi appalto ai privati, privatizzazione dei sistemi, privilegiare solo le patologie, ovviamente, remunerative rispetto a quelle non remunerative e così via. Un processo che non è che era cominciato allora, ma che si stava standardizzando allora e che ha portato i risultati adesso dei processi in sanità in Italia. Quindi io direi, lo possiamo considerare questa esperienza del Social Forum di Genova sanitario come l'inizio di questa fase, perlomeno di analisi, poi purtroppo di impatto sulla realtà, ahimè, non è altissimo, però diciamo, direi fondamentale. Non solo, però io volevo dire due cose. Una, che su questa storia di, cioè proprio quando ci stanno questi momenti, come per esempio è stata Genova e tutta quanta questa cosa, una delle cose fondamentali è avere qualche punto di riferimento in queste situazioni. E il fatto stesso che c'era una Croce Rossa attaccata alla tua maglietta, un punto di riferimento lo dava, perché là il problema era poi ripigliare un attimo la ragione dentro il casino totale. E quindi questo già di per sé significava qualche cosa. Sì, non solo un punto di riferimento fisico, sì, con gli episodi, esatto, che ha raccontato, ma anche un punto di riferimento mentale, possiamo dire. Cioè noi stiamo cercando di fare qualche cosa. Appunto, non questo siamo... mondo non è completamente impazzito. C'è sta comunque una forma di struttura che tende al mantenimento della vita, al mantenimento dei diritti, pure in mezzo a questo casino. Cioè, questo, insomma, questo è uno dei concetti. Secondo me, su questa storia di come poi diciamo questa cosa è proseguita. E forse con Paolo, con questo medico qua, diciamolo, vediamo pure, perché come diceva Augusto, Paolo prima non si conosceva, dopo però è uno di quelli che noi abbiamo parlato, conosciuto e frequentato, perché ne so, al Policlinico era nato l'ambulatorio per stranieri, a pediatria c'erano 40 medici che sono andati a fare all'ex Niato, stavano tutti i zingari, la campagna di vaccinazioni, eccetera. Quindi queste persone che poi si sono conosciute lì, in qualche modo, manco tentativo, perché alcune cose sono state fatte proprio, e diciamo, quindi in qualche modo diciamo hanno seminato qualche cosa di anche di concreto, insomma, no? Hanno provato a ricominciare una strada che deve dire, insomma, se lasciamo in mano a questi le storie, questi ci vanno falliti. Sì, perché poi io volevo dire un paio di cose pure io, una cosa sola. Questo sicuramente è il fatto della devastazione, mi piace continuare a usare questo termine, devastante era uno dei termini che usava nella testimonianza questo medico che hai citato. Ci sono adesso, nella devastazione della sanità pubblica, c'è anche l'aspetto drammatico dei migranti, soprattutto dei migranti senza documenti, no? E quindi c'è, per esempio, in Grecia recentemente c'è stata una direttiva da parte dell'allora ministro della sanità ai medici di non curare negli ospedali le persone prive di documenti di soggiorno, e c'è stata una reazione del loro sindacato molto dura, che ha detto: noi alle strumentalizzazioni che strizzano l'occhio ai fascisti non ci stiamo, noi curiamo tutti e certo non siamo poliziotti che chiedono i documenti. Quindi anche un ruolo importante dei sanitari. Però io volevo anche mettere l'accento appunto sul termine di devastante, devastazione eccetera, che avete anche descritto molto bene, che poi sono le imputazioni che vengono fatte ai compagni che sono rimasti nelle loro grinfie e che adesso si rischiano in 10-100 anni di carcere con la sentenza della Cassazione che ci sarà fra meno di un mese, no? Allora quello che appare è che la vera devastazione, il vero saccheggio, che sono termini che si usano in situazioni proprio di guerra, e di guerra noi abbiamo anche parlato fino adesso riferendosi a Genova, l'ha messo in campo qualcun altro, non l'hanno certo messo in campo, al di là dei giudizi che si possono dare su certi comportamenti di piazza, devastazione e saccheggio è stato messo in campo proprio dalle cosiddette forze dell'ordine, ecco questo direi. E poi vi volevo chiedere se avete magari qualche episodio particolare di un'assistenza, di qualche cosa che avete fatto proprio voi direttamente con questa ambulanza e questi due furgoni attrezzati, qualche cosa che ci potete magari raccontare, vi è rimasta più in mente? Io un'altra cosa, così affrontiamo anche un altro aspetto come esperienza diretta, e questo episodio, perché abbiamo parlato finora della violenza delle cosiddette forze dell'ordine, no? Però ci è capitato anche ovviamente di assistere a compagni che non erano stati malmenati dalle forze dell'ordine, questo bisogna anche dirlo. Allora, mi ricordo appunto in particolare sul lungomare, su una punta Vagno, mi pare che si chiama, a Genova, sì, e passiamo col furgone e... Adesso qui riservatezza massima, ovviamente, perché ne sono obbligato, ma è un famosissimo compagno romano, lo trovo con la testa spaccata completamente, perché aveva provato a dire a un manifestante che perché stava sfasciando un semaforo. E questo, appunto, un compagno, come dire, non sai, usiamo i termini di storico, c'è chiunque lo conosce, e con la testa fracassata, con una ferita profonda fino alla teca cranica, quindi ha richiesto 7 punti di sutura, perché aveva provato a interloquire solamente con un manifestante che stava tentando di spaccare un semaforo, insomma. E mi ricordo, a parte ovviamente il dolore, la cosa perdeva parecchio sangue, cioè non era neanche giovanissimo all'epoca, no, per dire, il suo volto e quella tristezza, quella cosa di... veramente un fallimento, cioè un fallimento veramente dialettico, un fallimento politico, insomma, ecco, questa è un'esperienza, a me mi ha toccato molto appunto quello sguardo, per dire, non mi era, in tanti anni di attività politica non mi è mai successa questa cosa, e non è questa la dinamica che cerchiamo in piazza, e quindi è l'altro aspetto che non avevamo ancora affrontato della questione della nostra assistenza. Cioè io volevo dire un'altra cosa, cioè tu dici questa cosa di... Adesso c'è questo processo, no? La Cassazione, eccetera, il rischio di 100 anni di galera e tutto quanto. Ma se andiamo a vedere, insomma, alla fine Scajola, che era il ministro dell'interno a quel tempo. Ma non gliel'avevano detto. Dico, un ministro dell'interno che crea una situazione del genere, per qualsiasi, insomma, tu poi crea una situazione, un casino totale proprio per la tua posizione che c'hai, o almeno non è solo la tua, ma sarà dell'intero governo con un input, eccetera. Ora Scajola si è dovuto dimettere, mica per la storia di Genova, ma per la storia di Biagi, se mi ricordo bene, cioè che perché ha levato la scorta, non ha ritenuto, vabbè, quello diciamo può essere un errore di valutazione, ma è un errore tra virgolette veniale rispetto a un errore, cioè a una tua diciamo carica, un tuo compito che doveva comunque mettere in sicurezza, perché questo è il Ministero dell'Interno che fa, deve mettere in sicurezza una piazza dove sta la manifestazione, hai fatto di tutto, c'è stato Borsaneto, c'è stato di tutto, e Scajola su quello proprio. Ma niente. Anche in piazza c'è stato il famoso la famosa spaccatura del corteo, che è una novità, non è mai successo che le forze dell'ordine spaccano il corteo in due, hanno diviso il corteo in due, quindi anche la gestione della piazza, che in quei momenti risale al Ministero degli Interni, chiaramente la cabina di regia è lì, è chiaro che ha voluto gestire, quindi lì è consapevole, non è un errore come nel, se questa è stata una gestione consapevole, perché va bene, rompiamo un pochino, prendiamo fiato, sì. We'll be right back. Comunque torniamo qui in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa. Per chi, come si dice, si fosse messo all'ascolto solo adesso, siamo con alcuni compagni medici e paramedici che hanno partecipato al team sanitario nelle giornate di Genova 2001. Stiamo facendo un po' un racconto, un po' alcune considerazioni, perché comunque la nostra attenzione è soprattutto centrata sulla prossima udienza di Cassazione che andrà a sancire o chissà, magari annullare, chissà. E noi siamo per definizione, siamo compagni e compagne, siamo per definizione speranzosi, mettiamola così. Di sostanza a questa speranza. Esattamente, allora è proprio questo che volevo dire. Quindi intanto il quadro è quello di che appunto stiamo da varie angolature descrivendo su quelle giornate, è quello di un comportamento che sembra appunto irragionevole, no? Da parte del potere, e si parlava per esempio del fatto di spezzare il corteo, di caricare senza dare una possibilità di deflusso e così via, no? Quindi però lo scopo secondo noi era proprio quello di terrorizzare, e molte persone, come riflettevamo, sono poi rimaste definitivamente terrorizzate, scegliendo proprio di non occuparsi più di quegli argomenti. Il discorso è invece che magari bisogna riflettere e cercare di contrastare da vari punti di vista questo terrore che ci vogliono rovesciare addosso. Genova, fra l'altro, non è stato sostanzialmente un inizio di una strategia, ma sicuramente ha determinato un salto di qualità che poi è continuato negli anni successivi, anche quando questo movimento, a parte insomma le iniziative contro le guerre e così via, ha avuto un momento insomma di rientro. A me non piace la parola deflusso, ma insomma un po' di ridimensionamento, diciamo così. Però poi, siccome tantissimi sono stati gli episodi in questi anni, fino agli ultimi dell'anno scorso e di 2 anni fa, comunque di risposta anche a livello di piazza, anche diciamo così improvvisata per certi versi, la risposta invece del potere è stata estremamente violenta, soprattutto sul piano giudiziario, perché io vorrei ricordare che queste condanne che adesso si trovano nuovamente ad essere considerate, questa volta in Cassazione, e per questi 10 compagni e compagne che sono rimasti appunto gli unici responsabili di quello che è successo a Genova, sempre per questo potere che sto evocando forse troppo, e le risposte che ci sono state a livello giudiziario sono state altrettanto, se non in un certo senso, sproporzionate. Ricordo che per esempio per i fatti del 15 ottobre a Roma ci sono compagni e compagne condannati per resistenza aggravata, quindi nemmeno magari per fatti specifici di lancio di materiale o cose del genere, anche a 5 anni di galera, che se pensate che per i compagni di Genova, le compagne di Genova in appello sono state aumentate le pene decise in prima istanza, parliamo di 10 anni, di 15 anni e così via, però 5 anni anche in una così fantastica, non saprei come definirla, imputazione di devastazione e saccheggio, 5 anni per resistenza aggravata sono altrettanto assurdi e inconcepibili. No, io direi che su questo mi uscire un attimo fuori dalla questione sanitaria, pure per essere abbastanza diciamo pratici nella cosa. Qui se no da una pervicacietà, insomma, no? Perché insomma lui ha detto di tutti, ma proprio di tutti, cioè insomma, quello che è successo a Genova usano ormai pure i sassi, perché per 2000 storie, poi se può dare qualche lieve interpretazione diversa, ma insomma tu sostanzialmente hai fatto una figura di merda totale, non solo in Italia ma in tutto diciamo il mondo. Ma voglio dire, i tuoi, i responsabili che sono i poliziotti, così, e vabbè, l'hai promossi, l'hai fatto prescrivere tutte quante le storie, perché questi non ci andranno mai, diciamo, non sarà mai effettiva questa cosa, e vuoi salvar punto? E fa prescrivere pure quest'altri, no? Cioè, almeno voglio dire, falla fare patta, se proprio te vuoi lavate le mani come Ponzio Pilato, cioè non te vuoi assumere responsabilità, non fa niente, ma almeno mantieni un attimo di dignità, voglio dire, no? In termini pratici. Invece no, non c'è, sta storia non c'è, perché qui insomma se ritroviamo un'altra volta esercito per strada, sulla questione dell'ansaldo, cioè il tema è sempre lo stesso, il copione è sempre lo stesso. E l'altra cosa che volevo dire, Genova, al di là delle insufficienze di come poi sia stata portata avanti, magari di un, cioè forse c'era nella speranza di tutti, chi è tornato da Genova è tornata con una grande incazzatura, una grande rabbia, una grande delusione, però è tornata anche secondo me con una speranza che comunque c'era un mondo, era possibile, ecco, c'era un percorso possibile da fare. Però dobbiamo dire che oltre a queste insufficienze, queste storie così, dopo 4 mesi, quando è stato? C'è stato 11 settembre. E quella è stata un'altra mazzata, cioè si è riportato ancora là su tutto un altro piano, diciamo, della questione, che toglie appunto questa ragione. Io non so, a Genova mi è parso come se ti leggi quei romanzi storici, cassarti dei barbari, che cose, impalavano la gente, chiunque trovavano, cioè, poi i morti non sono stati quelli là, ma il concetto era quello, cioè era il niente proprio, il terrore su... Poi la giustificazione, ecco. Tu hai citato l'11 settembre, la giustificazione che siccome ci sono i barbari, allora tutte le possibili garanzie o meno crollano. Ricordo sabato scorso abbiamo parlato di questo convegno degli European Democratic Lawyers, gli avvocati democratici europei, che si riuniranno il 25 maggio a Bruxelles, che proprio mettono il dito su questo codice del nemico, no? Cioè un codice che è diverso da quello che viene applicato per tutti gli altri cittadini, cioè i tuoi comportamenti ti fanno individuare come nemico, per cui dall'islamico al migrante, al manifestante, all'operaio incazzato e così via. Questo è un po', no, il concetto. Ma lì c'è una forma, cioè che ne so, quelli sapevano, che ne so, i nazisti che ebrei, che ne so, i turchi che armeni. Qui siete contro i no global, tra virgolette, è una categoria, una razza, diciamo, no? Che appartiene a qua razza, e poi il colore la cambia, cioè cambiano i criteri, ma tu va tolta, va eliminata, cioè è tutto a una fascia, e c'è chi c'ha in testa pure, diciamo, di impostare la cosa. Quindi non lo so, io penso che il problema sia proprio smontare tutta questa storia, perché mo al di là che però alcune questioni poi entrano pure dentro la gente, insomma, così, no? Poi te lo ritrovi con l'immigrato, te lo ritrovi. Quindi, secondo me, se c'è un compito oggi è di smontare queste questioni, cioè riportarle un attimo a dei concetti che sono universali, che devono valere più o meno per tutti, nelle differenze, ma più o meno per tutti, e eliminare questo concetto dell'annientamento, diciamo, della diversità. E l'altra questione, la questione secondo me positiva, cioè non dobbiamo più parlare solo di condanne, repressione, storie del genere, ma secondo me dobbiamo innescare pure dei percorsi pure abbastanza pratici, che cominciano a dare delle risposte che questo sistema non è più in grado di dare. Non c'è niente da fare, ci provano, possono dire, te lo dicono, famo questo, mo famo quell'altro, ma insomma, mi pare che no. Sì, anche se io volevo invece accentrare l'attenzione su un fatto anche culturale, rispetto appunto alle prossime pronunciamenti della Cassazione, anche culturale rispetto al ventennio che abbiamo passato, cioè nel senso, noi come generazione siamo cresciuti pensando alla magistratura come al braccio non armato del sistema che garantiva un certo ordine, no? E il capitale, cioè, faceva il lavoro più pulito che non facevano altri, e che quindi era al servizio di una logica di sistema, eccetera. Negli ultimi 20 anni, se non ce lo dimentichiamo, stava passando comunque una parte della popolazione italiana l'idea di una magistratura che era un covo di comunisti che faceva, cioè non ce lo dimentichiamo anche questo, che non faceva altro invece che al contrario per salvaguardare, cioè perlomeno lotta tra pari, in cui nel sistema c'erano degli antagonismi e la magistratura si era schierata contro chi in quel momento stava al potere, insomma, non ce lo dimentichiamo. Adesso, per carità, non tra i compagni, ma in una parte della popolazione italiana la magistratura era vista comunque come una addirittura antagonista, sì, vabbè, che poi è passata questa cosa qui, quando noi siamo stati abituati che andava in galera chi rubava una mela e non chi invece faceva fallire una banca, appunto, mandando sul lastico migliaia di persone. Questa, cioè, invece in questi ultimi anni stava passando una cosa contraria, no? Che addirittura, appunto, chi stava al potere si sentiva minacciato, lo Stato democratico era minacciato dalla magistratura, non so in nome di quali ideali alternativi, questo non avevo mai capito, però ecco, capito. Quindi io questo è fondamentale adesso in questa fase, non perché sia così cambiato il sistema, perché è cambiato governo, 0, però stiamo passando una fase epocale diversa, no, rispetto al ventennio precedente. E ne parlavamo prima anche rispetto all'attentato di stamattina, insomma sembra quasi di essere in quella fase dei primi anni 90, adesso in cui si era dissolto uno Stato, lì appunto anche per colpa, merito, comunque a causa anche della magistratura. Adesso siamo in questa fase in cui il potere politico ha abdicato, no, rispetto invece a dei burocrati messi dall'Europa a un certo punto, quindi siamo di nuovo in una confusione, direi, notevole, quasi una vacanza di potere o un'alternativa di potere non democratico, e sono ricominciate anche le bombe stamattina, insomma ci mancava anche questa, quindi lo inquadrerei in questo quadro. Vabbè, insomma, stiamo allargando un po', però... Sì, no, comunque... È vero, è vero. Sì. Andiamo verso la conclusione di questa interessantissima, almeno per noi che ci siamo, speriamo. Fateci sapere se vuoi dare pure il nostro cellulare per fare. Ricordo il cellulare per gli sms. Ah, scusate, per gli sms che arrivano qui è 342 3574 357. Quindi comunque ricordiamo ancora una volta che è prevista intorno al 13 luglio la sentenza della Cassazione su questi 10 compagni con queste pesantissime pene. A Roma già ci si sta muovendo, ci stiamo incontrando varie strutture di movimento per organizzare anche qualche cosa, insomma, di concreto, oltre ovviamente alla solidarietà totale a queste compagne, a questi compagni che se la decisione, che non ci auguriamo ci sarà, avranno bisogno veramente di tutto il nostro appoggio e di tutto il nostro affetto. La compagna avvocato Simonetta, con cui abbiamo parlato al telefono sabato scorso, usava una parola che non deve spaventare, usava la parola amore, cioè anche tutto il nostro amore, perché non è che facciamo solo, devastiamo e saccheggiamo come dicono loro, ma siamo capaci, ci mancherebbe altro, anche di quest'amore. La radio se ne fa sicuramente parte importante, fondamentale, perché, ma non per qualche motivo, perché la radio è appunto una fonte di informazione alternativa e militante, come già abbiamo fatto mettendoci a fianco totalmente delle compagne e compagni che sono stati inquisiti, arrestati e condannati recentemente per i fatti del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011. E allora appunto dicevamo che c'è a questo proposito, quindi intanto ringraziamo i compagni qui del team medico del Genova Social Forum che ci hanno fatto un ricordo molto appassionato, quindi molto caldo a tal uopo utile per tutti e tutte. È convocata proprio perché siamo convinti che non vadano lasciati soli questi 10 compagni e compagne che rischiano di andare in galera dopo tutto quello che è successo a Genova. Quindi c'è un'assemblea cittadina, per una cittadina, anche se l'ambizione è di voler costruire una manifestazione anche nazionale, perché Genova è stato un fatto nazionale, addirittura internazionale è stato. Però noi ci muoviamo per ora con l'assemblea cittadina per martedì prossimo al Forte Prenestino alle ore 20. Queste sono le due righe di convocazione. Il 13 luglio la Cassazione, nessuna paghi per tutti, questo è il titolo. Il 13 luglio la Cassazione è chiamata a convalidare la condanna di 10 compagni e compagne per le manifestazioni di Genova 2001. Alcuni compagni e compagne del Movimento Romano lo scorso 16 maggio, cioè mercoledì scorso, si sono incontrati e hanno cominciato a ragionare intorno alla possibilità di lanciare una campagna che prevede una serie di mobilitazioni e scadenze a ridosso di quella data. Lo Stato intende riscrivere la storia degli intensi giorni di protesta contro il G8 che nel 2001 segnarono profondamente un intero movimento che aveva lucidamente anticipato quanto il neoliberismo e la crisi avrebbe causato nelle vite di tutti e tutte. Gli apparati di potere in questo modo si autoassolvono, individuando 10 compagni e compagne cui vengono addossate le responsabilità e condannandoli a pesante pene, fino a 15 anni di galera per quasi 100 anni di galera complessivi, facendo passare i poliziotti massacratori per innocenti difensori dell'ordine, promuovendo addirittura i vertici delle forze dell'ordine, proprio quelli che hanno organizzato e guidato la mattanza contro i manifestanti. Nelle accuse contro i compagni e le compagne è stata usata la figura giuridica di devastazione e saccheggio, che ha permesso ai giudici di dare condanne abnormi per fatti di lievissima entità. Reato che si sta cercando di dare anche nelle recenti manifestazioni. L'uso intensivo e sproporzionato dei reati associativi per le manifestazioni di Genova e per quelle successive mira alla neutralizzazione dei movimenti anche tramite arresti e perquisizioni preventive. L'abbiamo vista a Francoforte proprio di ieri, hanno cercato di dimezzare il numero dei partecipanti previsti in 40.000 a 20.000 attraverso diffide, perquisizioni, fermi preventivi alla manifestazione di oggi pomeriggio. Conclude così questo appello alla manifestazione, all'assemblea di martedì. Per questi motivi si è pensato di convocare per martedì 22 maggio al centro sociale Forte Prenestino alle ore 20 un'assemblea cittadina, cui invitiamo tutti e tutte, con l'idea di lanciare una campagna nazionale in cui si chieda con forza che non siano queste 10 persone a pagare per i fatti di Genova 2001. Una campagna che sia in grado di tenere insieme le diversità e i tanti linguaggi e che possa convergere in una manifestazione a Roma nei giorni in cui la sentenza della Cassazione rischia di sottrarci 10 compagni e compagni e rinchiuderli in galera. I devastatori e i saccheggiatori sono loro, che nessuno e nessuna resti solo o sola. Ecco, questo è l'appello con cui si chiama questa manifestazione, questa assemblea cittadina, per ora cittadina, poi speriamo di farne una nazionale, per martedì, quindi fra 3 giorni, martedì 22 alle ore 20 al Forte Prenestino. Ringraziamo ancora i compagni e i compagni. Prego, grazie a voi. Ciao, ci vediamo prossimamente. Ciao. Abbiamo cominciato tutti a vedere la violenza.